con Gian Maria Cervo, direttore artistico della 22esima edizione del Festival Internazionale di Teatro Quartieri dell'Arte a Viterbo dal 15 settembre al 13 novembre 2019. Gian Maria, ben trovato. Buonasera. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. Allora, è un festival di drammaturgia contemporanea, ma in realtà è un festival di drammaturgia più che di drammaturgia contemporanea, perché poi crediamo che anche dei fenomeni che vengono considerati come fenomeni come dire, di avanguardia drammaturgica, di sperimentazione drammaturgica, poi in realtà sono fenomeni metastorici, sono fenomeni che hanno attraversato la storia. Allora è anche affascinante andare a trovare le tracce, per esempio, di strategie che noi consideriamo erroneamente contemporanee e avanzate nell'antichità. Ed è esattamente quello che facciamo quest'anno. Ovviamente attraverso un confronto tra le drammaturgie contemporanee appena sperimentate, da pochissimo sperimentate, e le tracce di drammaturgie radicalmente sperimentali nell'antichità, che a volte veramente si rintracciano per frammenti, per aneddoti, però è affascinante proprio per questo. E quindi è affascinante scoprire che poteva esistere, per esempio, un autore con lo stesso tipo di impatto sul pubblico che nella nostra epoca avrebbe avuto una come Sarah Kane nell'antica Grecia, o pensare che c'era un drammaturgo capace dello stesso, di suscitare lo stesso scandalo che suscitò in epoca vittoriana Oscar Wilde nell'antica Grecia, di nuovo, no? Penso in questo caso ad Agatone. Poi ovviamente associati a questi autori dell'antichità riscoperti, riscoperti tra l'altro attraverso il lavoro comunque di drammaturghi giovani, di drammaturghi contemporanei, c'è la creazione collettiva polivocale che ovviamente usa e manipola tutti i registri del contemporaneo, compresi anche registri molto pop e pulp, compresi anche, insomma, gli elementi, come dire, sangue e sperma, insomma, quindi anche molto eclatanti, sensazionalistici, però lo fa ovviamente manipolando determinati linguaggi commerciali, linguaggi del mainstream contro loro stessi in qualche modo. Quindi in sostanza il nucleo del festival è questo, sono commedie contemporanee sperimentali messe a confronto con quello che resta di repertori antichi estremamente sperimentali di cui abbiamo solo le tracce. Questo è l'anno di Quartieri dell'Arte raccontato in sintesi. Sì. Quanti saranno gli eventi, gli spettacoli in cartellone? Allora, se parliamo di recite, siamo sulle 70 e rotti, quindi insomma c'è da lavorare, c'è da divertirsi, i titoli sono 21. Come saranno organizzati nel corso di questo periodo? Con formule curiose, inedite, per esempio i frammenti degli autori dell'antica Grecia sono tutti ospitati all'interno dello stesso luogo fisico, perché abbiamo prescritto ai giovani drammaturghi che poi sono occupati di recuperare questi frammenti, di creare una cosa che fosse un ibrido tra l'opera di drammaturgia e un museo. La prescrizione che gli abbiamo dato è stata: fate in modo che ogni giorno questo museo cambi aspetto. Quindi lo spettatore che va lì si ritrova a vivere un'esperienza che è sicuramente sorprendente, perché magari vede uno spettacolo, ma poi vede la prova di un altro spettacolo che sta per subentrare a quello che ha appena visto, e può vedere a un certo punto anche una performance, o può vedere anche una conferenza a sorpresa, può trovarsi di fronte a un'installazione curiosa. Quindi questa è un po' la cifra del festival di quest'anno: lavorare sugli ibridi non solo tra linguaggi, registri, stili, prospettive sociali, prospettive culturali, ma anche sugli ibridi tra media diversi, tra media radicalmente diversi, appunto come possono essere un museo e un'opera teatrale. E poi ci sono le fruizioni teatrali tradizionali. Io segnalo in particolare la presenza di drammaturghi di fama internazionale, che poi lavorano anche molto nel mondo del cinema, per esempio i fratelli Presnikov, che sono gli sceneggiatori di Nikita Mikhalkov e di Kirill Serebrennikov, che portano al festival una performance benaugurante che riguarda Ercole. Dico benaugurante perché ovviamente la performance gioca sulla fatica che riguarda la pulizia delle stalle di Augia, e quindi insomma potete immaginare facilmente cosa ci sarà in piazza o in scena. E poi sempre con i fratelli Presnikov ho scritto una commedia che si chiama Free Time, e che tra l'altro usa come found materials una vecchia serie che avevo scritto alcuni anni fa, ma che viene completamente radicalmente rimaneggiata, ed è una commedia che parla poi in definitiva di questa deriva che è iniziata insomma in questo decennio, no, della cultura occidentale, e anche questa necessità poi, no, che i diritti camminino insieme. È fuorviante percepire il mondo come concorrenza, competizione fra diritti di natura diversa. I diritti sociali e i diritti della persona sono diritti che sono altrettanto importanti. Adesso detto così sembra serissima, in realtà la commedia è divertente, non ci siamo divertiti da morire a scriverla, e quindi insomma bisogna venirla a vedere per credere, ma è stata, devo dire, a livello di processo creativo una delle esperienze più esilaranti che io abbia avuto. E poi c'è la riscoperta dei luoghi e della funzione dei luoghi, insomma, all'interno del festival, fatta attraverso tutta una serie di altri spettacoli. Un'ultima curiosità, questo abbinamento nel manifesto tra sesso e arte? Ah, sì. Allora, abbiamo giocato, dico io scherzando in senso quasi ortopedico, su ricostruzione di una città, e ovviamente così abbiamo preso un po' a ridere il fatto che si vede questo ragazzetto che si apre la biancheria intima, e dal mare e dalla biancheria di questo ragazzetto viene fuori uno dei monumenti più famosi di Viterbo, che è la Fontana Grande. Però il fatto che stia sul mare non è così folle, perché c'è una replica di Fontana Grande in scala leggermente più piccola sull'isola di Rodi, siccome trattiamo anche della tragedia greca, insomma, col fotografo, l'immagine con Francesi, ci siamo molto divertiti a fare questo scherzo, insomma, che comunque sembra che stia avendo dei feedback divertenti. In chiusura ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Certamente, allora www.quartieridellarte.it. 22esima edizione del Festival Internazionale di Teatro Quartieri dell'Arte a Viterbo dal 15 settembre al 13 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianmaria Cervo. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio Federico, grazie, a presto. Ciao. Ciao, ciao Federico, grazie.